l'Egitto che Leopatra regina. Un lume d'amore mai sta dolce favella di Cesare sul volo. Contro di col mio chi d'ingolare tenta di questo regno la corona al mio crin. In mia difesa la tua pietà imploro. Il giorno è questo in cui ne soglio a vito all'onor salirai. Del conviene finalmente che l'amo. A doni tuoi grata mi troverai. Dimmi potessi senza rossor che l'amo. Amor, regina, più che il desio della mia gloria l'armi fa che io porti in Egitto. Udi la fama, lodar la tua beltà, desio mi prese di vederti vicin, e mentre spero contro i nemici miei strage e terrore, sul porto a te con la vittoria il cuore. Che sento, mio rival? Qual novità? Cese, come puoi avvilirti all'amor una regina? La fama non menti, stupido ammiro ciò che di vago adura nel tuo sembiante amore. Qual io mi sia, tanto sarò per te, se non posseggo di bugati In segni affetti tuoi in Roma chi dirà di Cleopatra precedimi alla reggia ivi consenno voglio che dispugna ma ti sovvenga che nei principi suoi lusinga amore Thank you. era Cesare dunque, in esso cara un tuo rivale al trono, in lui si tolga un inciampo al tuo amor. Come eseguire il disegno potrem? Un improvviso assalto che noi diamo in fra i silenzi della futura notte, ogni difesa a Cesare torna. Preso l'impegno, o regnar o morir, in breve spero prendere a te la sposa e a me l'impero. Anch'io per un rivale dai sta di dovere riguardi non avrò. Lo odio in un cuore che fu sempre fedele, quando è figlio d'amore più crudele. Voglio veder l'indegno tra le rovine in volto, invece di goder e star sepolto. Lo scettro in mano, dal fine gli allori, il cuore.